Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Industry 4.0, Internet of Things e altre espressioni sulle nuove tecnologie manifatturiere stanno entrando sempre di più nel nostro linguaggio. Eppure queste rivoluzioni tecnologiche sembrano cose molto al di là da venire e cose che spaventano, forse per la mole degli investimenti, forse per il fatto che per mettere sti benedetti sensori e collegare tutto, qualsiasi cosa a internet e poi raccogliere le informazioni, ci si aspetta di dover in qualche modo sconquassare e rifare tutto, di investire molto, di riorganizzare tutto, cose disruptive che spaventano l'imprenditore, il quale magari dice: per fortuna queste cose qui arriveranno fra tanti anni. Non è così. Collegando in rete alcuni elementi della fabbrica e anche alcuni elementi degli impianti che vengono prodotti, si possono ottenere già ora, già in poco tempo, dei vantaggi considerevoli in termini di redditività, di produttività e quindi anche di marginalità. E c'è chi lo sta facendo già ora. Ci sono già adesso progetti già funzionanti di Industry 4.0 che dimostrano che si può fare. Ne parliamo questa mattina con l'ingegner Luciano Sottile della Goglio. La Goglio è una bellissima azienda di medie dimensioni italiana che fa il packaging per il caffè e i macchinari per impacchettare il caffè, che non è una cosa così semplice, perché il caffè produce anidride carbonica, pertanto le confezioni si gonfiano e questo rappresenta tutta una complessità tecnologica organizzativa non da poco. La Goglio è la compagna di strada dei principali produttori di caffè italiane. È un'azienda familiare nata nel 1850, 360 milioni di fatturati, 1600 dipendenti. Franco Goglio è il presidente. Oggi parliamo con Luciano Sottile, che è direttore generale della divisione macchine. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, ai suoi ascoltatori. Voi avete collegato dei sensori all'interno delle macchine che impacchettano il caffè che voi costruite su misura dei vostri clienti, giusto? Sì. Ci spieghi cosa avete fatto? Allora, bisogna innanzitutto immaginare che le macchine che vengono prodotte oggi comunque hanno un cuore elettronico, hanno già un cuore elettronico, un cuore digitale che raccoglie una serie di indicazioni provenienti dai diversi gruppi che costituiscono la macchina. Quindi questa è la base di partenza. Quello che abbiamo fatto noi è di sviluppare un sistema di collegamento delle macchine in maniera tale da offrire ai nostri clienti un diverso modo di servire appunto le macchine. In pratica voi costruite per i vostri clienti che sono produttori di caffè degli impianti per impacchettare il caffè e metterlo nel film, peraltro voi fate anche il film, e questi impianti sono fatti su misura grazie a un sistema di Internet of Things che mette i sensori dappertutto. Potete monitorare in tempo reale con estrema precisione la performance dell'impianto in termini di efficienza secondo per secondo, è giusto dirla così? Assolutamente, assolutamente sì. Se velocissimamente immaginiamo come venivano acquistate le macchine, le macchine di confezionamento qualche anno fa, l'attenzione del cliente era concentrata nel capire quale macchina fosse effettivamente in grado di dare le prestazioni promesse dal produttore. E in epoca più recente però questa modalità di scelta degli impianti si è evoluta e si è spostata dall'oggetto prodotto all'azienda e all'organizzazione, al tipo di servizio che può essere dato dopo che la macchina è stata installata. Perché raggiungere altre prestazioni al momento del collaudo è abbastanza facile, il problema è negli anni, è di mantenere l'efficienza a livello alto per gli anni in cui la macchina produce. Consideri che una nostra macchina rimane tranquillamente in linea da 10 a 20 anni. Certamente. Ecco, nella seconda parte della trasmissione ci faremo spiegare bene che cosa significa un sistema di Internet of Things già funzionante ora e quali vantaggi in termini di reddito porta all'azienda. Adesso dobbiamo un attimo interromperci per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. The Rieccoci in linea, stiamo parlando con Luciano Sottile, direttore generale della divisione macchine della Goglio, che è una multinazionale da 350 milioni di euro che fa film per impacchettare il caffè e soprattutto le macchine che impacchettano il caffè stesso. I suoi clienti sono le case produttrici di caffè, in primis la Lavazza, e con lui parliamo di un sistema IoT, Internet of Things, già perfettamente funzionante. Ha iniziato a illustrarcelo nella prima parte della trasmissione, adesso ci stava spiegando come questo renda possibile monitorare l'efficienza della macchina e come l'efficienza, ci dirà fra poco, si può tradurre anche in utili maggiori. Sì, assolutamente. Se ricordiamo come è il modello tradizionale di fare business tra chi fornisce tecnologia e chi la utilizza, ci ricordiamo subito che una volta che il cliente ha acquistato una macchina, e poi evidentemente ha bisogno di pezzi di ricambio e di service e li paga al momento. Invece nella Industry 4.0, che in termini di rapporto con i clienti significa sostanzialmente macchine connesse 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana, questo consente di ribaltare completamente il paradigma della collaborazione tra fornitore e cliente. In particolare, quindi, non forniamo soltanto service o non forniamo più service ai pezzi di ricambio, ma possiamo servire efficienza di linea e quindi venire anche pagati sulla base dell'efficienza di linea. Ecco, voi avete un nuovo modello di business per cui se superate un certo livello di efficienza vi vengono riconosciute delle fee supplementari. Sì, assolutamente sì. E da questo punto di vista c'è una grande alleanza tra l'utilizzatore della tecnologia e il fornitore, perché tutti e due hanno i medesimi obiettivi: fare in modo che le macchine funzionino più a lungo possibile e richiedono meno service e meno E possono ricambi. Funzionare più a lungo possibile proprio perché, mettendo questi sensori interconnessi dappertutto, il monitoraggio consente di fare interventi più efficaci e più tempestivi. Soprattutto consente di passare da una formula di manutenzione preventiva, che significa che a scadenza io cambio un pezzo o un gruppo prima che questo abbia denunciato dei problemi, ad una manutenzione predittiva, cioè io vedo dal quadro di controllo di quella macchina, dalle informazioni che i sensori a bordo mi mandano, che sta per succedere qualcosa in un definito gruppo, e quindi io sono in grado di intervenire un attimo prima che succeda qualcosa. Certamente. Sulla storia della Goglio, che è un'azienda antica affascinante, ascoltate questa scheda. Goglio è una tipica società manifatturiera ad alto valore aggiunto, leader di mercato nel proprio segmento, ma almeno fino ad oggi pressoché sconosciuta al grande pubblico. Fa parte di quel quarto capitalismo, nome inventato dal giornalista Giuseppe Turani sulla base degli studi di Fulvio Coltorti, per 30 anni a capo dell'ufficio studi di Mediobanca, che genera gran parte del valore aggiunto italiano e sta al cuore del nostro sviluppo. Si tratta di medie aziende produttive, leader nel proprio segmento di mercato, che in molti casi si sono inventate loro stesse, con gran parte dei ricavi generati all'estero, elevati investimenti in ricerca e sviluppo, proprietà familiare, scarsa propensione all'apertura del capitale e alla quotazione in borsa. E Goglio, che ha ricavi per circa 350 milioni di euro, il suo segmento di mercato se l'è proprio inventato. Realizza impianti su misura per il confezionamento di alimentari e bevande. Al 50% si tratta di caffè, ma produce anche il packaging plastico, che nel caso del caffè deve avere particolari caratteristiche di elasticità, visto che il caffè nel tempo emette anidride carbonica. Si tratta quindi di una società sia meccanica che chimica e anche di servizio, visto che assicura la manutenzione degli impianti nel tempo. Goglio è nata a Milano nel 1850 per produrre sacchetti di carta ed è saldamente nelle mani della famiglia da 5 generazioni. Franco Goglio è l'attuale capo azienda. Nel tempo l'azienda si è specializzata in produzione e servizi più evoluti. La Goglio è presente con stabilimenti produttivi in Italia, Olanda, Polonia, Stati Uniti e Cina. In vari paesi europei e nel sud-est asiatico sono dislocate sedi commerciali e di assistenza con propri magazzini, oltre a un numero di agenti operanti in tutto il mondo. Negli anni 60 nasce Fresco System, il servizio completo studiato per integrare imballaggi flessibili, impianti di confezionamento, tecnologia e assistenza. Sempre a quegli anni appartiene l'invenzione della rivoluzionaria valvola monodirezionale di degasazione, ancora oggi al cuore dell'offerta, sia nell'ambito delle confezioni per il caffè che per altre applicazioni. Ai primi affermati sistemi per il confezionamento del caffè sono seguite le confezioni asettiche, varie tipologie di imballaggi per il settore alimentare, per la grande ristorazione, per il cibo per animali e per la detergenza, fino alle confezioni per l'industria chimica e farmaceutica, tutte completabili con una vasta gamma di accessori, come maniglie, sistemi facilitati per l'apertura e la richiusura, erogatori e sagomature personalizzate. Rieccoci in linea con l'ingegnere Luciano Sottile dell'Agoglio. Stavamo parlando del sistema di Internet of Things già funzionante che loro hanno messo sulle macchine che impacchettano il caffè. Sistema che consente non più di fare la manutenzione in intervalli di tempo discreti e quindi con dei costi fissi ma anche tante volte inutili, ma una manutenzione predittiva ogni volta che serve qualcosa, perché i sensori ti dicono se c'è qualcosa che non va o anche se ci sarà qualcosa che non va, e quindi tu intervieni, hai maggiore efficienza e questo, stavamo spiegando, cambia anche un po' il modello di business, è giusto? Sì, questo crea quella che in inglese si chiama intimacy fra il fornitore e il cliente, cioè un'alleanza che permette al cliente di avere maggiori efficienze, maggiori produzioni e quindi maggiore profitto, e permette al fornitore di avere un rapporto tanto intimo da rendere ai concorrenti più difficile la possibilità di entrare. Ecco, tra l'altro, superato un certo livello di efficienza vi viene riconosciuta una fee, cioè dei soldi in più, ma questo non è un costo alla fine per il cliente, perché il maggiore livello di efficienza fa guadagnare di più il cliente, e è come se vi retrocedesse una parte del guadagno che voi rendete possibile. Esatto, questa è proprio la maniera nella quale si manifesta in termini economici questa alleanza di cui parlavo prima. Abbiamo tutte e due lo stesso obiettivo, e cambia anche la maniera rapportarsi fra i due team, il team del fornitore e il team del cliente, perché la premessa per arrivare a risultati così brillanti è di costituire un team unico nel quale si lavora fianco a fianco. Dunque, aumenta l'efficienza, aumenta la redditività e una parte viene retrocessa al fornitore che è anche un partner. Insomma, questo è l'esempio di come l'Internet of Things cambi il modello di business delle aziende. Quindi si fanno business diversi, cambia anche la modalità di generare gli utili, no? Sì, in realtà è proprio l'interpretazione del business che subisce delle modifiche profonde, e questo evidentemente è uno dei fattori che permetterà al mondo occidentale di difendersi dai concorrenti emergenti. Quindi, perché nei paesi emergenti, in cui tra l'altro voi siete molto presenti, quindi li conoscete, non hanno i sistemi Internet of Things? Direi che ancora non ci sono, intanto sono in fase di sviluppo anche qui da noi in Europa. Il presidente Renzi ha preparato l'agenda per Industry 4.0 non più tardi di una settimana fa. Sì, certamente. Quindi se noi siamo pionieri in queste cose possiamo difenderci meglio. Sì, anche perché non si tratta soltanto di connettere le macchine. Le macchine connesse danno fiumi di dati, questi dati vanno interpretati, quindi l'interpretazione poi sarà il vero know-how che un'azienda dovrà sviluppare per essere in grado di essere competitiva nei confronti degli altri. E noi abbiamo aziende storiche come la sua che quindi vivono anche del know-how accumulato nel tempo. Assolutamente sì, i prodotti si possono identificare, catalogare e confrontare, i servizi invece sono beni esperienziali che migliorano man mano che si accumula appunto esperienza. Da questo punto di vista, anche in termini di occupazione, ciò consente di un maggiore sviluppo dei posti di lavoro che magari si sposteranno dalla manifattura pura al service. Certamente, purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere, ringraziamo l'ingegner Sottile. Grazie a lei e agli ascoltatori. Saluto gli ascoltatori, noi ci sentiamo sabato prossimo alle ore 14. Buona domenica da Filippo Astone.